Ricordate, dovete convertire la massa in grammi prima di applicare la formula e un chilo è uguale a 1000 grammi.